Studio tu, Coyombo. Cosa ho detto? Studio tu, Coyombo. Drago. Ecco, ecco. Un po' d'acqua. Ma non un po' d'acqua. Un'ambulanza, che l'acqua. Chiedo asilo. Bentornati al reparto pneumologia di Chiedo Asilo. Un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Cari ascoltatori, sarebbe arrivato di l'evento... pneumologia di Radio 24, no, però sì. Fammi fare bene gli attacchi. Ok, hai ragione, Drago, hai ragione. Allora. Dai. Bentornati al reparto di pneumologia di Radio 24. Con noi il dottor Pietro Lacorte e la dottoressa Laura Fagin, pronti a intervenire nel caso in cui qualcuno di noi avesse un versamento toracico, ecco, pleuricistico. Bravo, bravo. Tipo Drago. Esattamente questo. Ecco. Cari ascoltatori, è arrivato l'evento cui le Olimpiadi di Londra fanno un baffo. E c'è anche da leccarsi i baffi. Avevamo detto che questa la toglievamo. Ma è carina, i baffi. Allora, la Wunderwaffer AG ha organizzato l'evento dell'anno. La maratona Wunderwaffer. Una corsa senza sosta per i boschi svizzeri. E alla fine una bella scorpacciata di Wunderwaffer in compagnia. Così ti dai il colpo di grazia, non sei stanco? Le iscrizioni sono aperte, mandate una mail a chiedoasilo@radio24.it. È tutto a spese dei concorrenti. Wunderwaffer mette a disposizione delle graziose pettorine e nulla più. Wunderwaffer nella merenda, oggi c'è una sorpresa nuova. Wunderwaffer. Occhio ragazzi, perché Wunderwaffer è l'ostia sottilissima che ti dice hai vinto, hai vinto. Mastica piano e non mandare giù, c'è una sorpresa nuova. Sì, una buona merendina. Chiedo asilo. Bella però, la pettorina bella però, eh? Sì, è bellissima. Certo, cioè. Te la cuciono tutta bene. Come non te la puoi cuciono? Togliere più dalla maglietta. Vabbè, comunque è bello cominciare la settimana subito con la comicità folgorante dei Philly Burger. È arrivato fresco fresco il nuovo episodio della sitcom che ha ribaltato la Svizzera, che sta per ribaltare anche l'Italia, nonostante gli evidenti problemi linguistici. Ma quali problemi linguistici, Drago? Scusa, è tutto così chiaro? Allora è una sitcom televisiva, noi la mettiamo alla radio. Vabbè, che già lì. Tutta parlata in dialetto svizzero, non è il massimo della comprensibilità, non stai comunicando. Stupidate. È come dire che Troisi aveva dei problemi linguistici solo perché si esprimeva in napoletano. In effetti senza i sottotitoli. È come dire che Dario Fo quando recita in Gramelot non riesce a farsi capire. Ha vinto il Nobel grazie al Gramelot. Va bene, va bene. La tua appassionata arringa difensiva del dialetto svizzero tedesco è commovente. Quindi non resta che rispettare un doveroso silenzio per meglio capire le sfumature linguistiche di questo quinto episodio di De com'era? Di Füdliburger. Du Arsch, hast Auto ins Fluss parkiert. Was? Ich kann das nicht mehr gut genug. Komm halt fressen, du Lung. Hab ich ums Haar retten können. Hab wirklich Glück gehabt. Das sehe ich schon anders, du. Glück wäre es gewesen, wenn du versunken wärst und das Auto hätte sich retten können. Allora, Serravalle scrivi a Kappa, non c'è solo il famoso outlet, l'incubo degli uomini e il paradiso delle donne. Anzi, proprio donne di Serravalle Scrivia stanno vivendo una specie di inferno in terra. Perché? Sono mamme molto preoccupate per la maestra dei loro bimbi e stanno arrivate al punto di chiederne l'immediata rimozione. Ma cos'è? Una delinquente? Un precedente penale? Peggio. Si droga? Peggio. Come peggio? Allora, per fare un inutile giro di parole, la maestra è vittima di troppa generosità da parte di Madre Natura e sembra ne vada fiera su Facebook. Cioè, è tettona, è una tettona. Sì, però ecco, questa sexy teacher preoccupa un po' le mamme. Ma come? E non perché non fa bene il suo lavoro. Basta, tetta gigante. Perché non sempre le mamme possono andare a prendere i loro bimbi a scuola e a volte ci deve andare il papà. E se il papà va a prendere i bambini a scuola e la sera prima ha guardato le foto mezze nude della maestrina, le mamme non sono contente della situazione, capito? Una cosa così. Lui arriva lì e fa: buongiorno, Lei è la maestra, assiomista, in vacanza, Saint-Tropez. Esatto, è così. È una grande notizia comunque, Drago. Certo. Cioè, finalmente un lumicino di speranza per tutti i milanesi che, poverini, sono costretti a portare le loro mogli all'outlet di Serravalle. Quindi perché? Perché? Perché d'ora in poi potrete mollare la moglie all'outlet e andare di corsa a scuola a cercare la sexy maestra per qualche ripetizione privata. Ma come qualche ripetizione privata? La tua età? L'analfabetismo, Drago, di ritorno, colpisce molti italiani di ritorno. Analfabetismo. E ora, bambini, ricreazione. Mi dovresti 50 euro, eh? Perché? Perché poi dopo io te ne do 100, poi tu me ne dai quei 75. Ma di quali? 75 di quando? Mi dovevi 75. Ma no, hai detto 100 un attimo fa. Sì, ma 75, 15 che ti ho dato l'altro giorno. Comunque non ho capito. Voi, voi due, sono qua, no? Sì. Allora, no, non sbuffate. No, perché oggi è il vostro giorno fortunato, sì, ci sei tu, quindi che mi chiede 75 euro. Se vuoi, fai lo spiritoso. Tu divertiti finché puoi, e poi vediamo. Ma cosa vuoi? Ma poi perché dobbiamo essere fortunati, scusa? Allora, avete di fronte a voi un bambino indaco. Cioè, chi? Ma cosa dici? Ma cos'è? Ma sono io, no? Ma a me sembra uguale al solito, non hai cambiato colore. Ma no, ma che colore? Indaco è il colore della mia aura, no? Non si può vedere, ma c'è. L'aura. Ma come non si può dire niente, non si può parlare, non capite nulla? Questo qui è un concetto New Age, no? Ah, sì, un bambino indaco è un bambino speciale. Eh sì, certo. Che tu non fossi propriamente normale l'avevamo capito, Certo che non sono normale, sono un bambino indaco e me ne vanto anche. Se fosse informati, e non è difficile, sindaco, basta che vai su Wikipedia, bambino indaco, vai a vedere, vedi subito, bambini dotati di grande empatia, curiosità, forza di volontà, una spiritualità, sono anche molto intelligenti, intuitivi, e insofferenti nei confronti dell'autorità. Cioè, non vi viene in mente nessuno che conoscete? Per ora no, possiamo solo escludere che tu stia parlando di te stesso perché hai detto intelligente, forza di volontà, tutto quanto, poi quindi, empatia. Ma no, siete ridicoli, proprio siete ignoranti. Ma cosa ignoranti? Sì, i bambini indaco possono anche avere delle capacità paranormali, telepatia, chiaroveggenza. Sì, ma tu cosa c'entri? No, c'entro io. Mi sono reso conto di essere un bambino indaco, no? Da cosa? Ma da perché, cosa, infatti? Ma non è una cosa che si misura, non ci sono prove evidenti, scientifiche. Sono cose che si sanno, e quando lo sai, è così. Ma sì, ma poi fai su Wikipedia, leggi. Sì, vabbè, sì, ho capito, ma chi ti ha messo in testa di essere un bambino indaco? Non ho capito. Sì, sono solo cialtronate. Tu hai letto su Wikipedia e ti sei riconosciuto in questa descrizione. Vabbè, allora anche Galileo dicevano che diceva cialtronate, poi abbiamo visto dove è andato a finire. Lo so, vabbè, dopo 2000 anni gli ha dato ragione. Però insomma. Ok, Galileo. Ma scusa, ammesso e non concesso che esistano veramente questi bambini indaco. Sì, che poi E tu come fai a dire di essere uno di loro? Perché non è che leggi la descrizione su Wikipedia e dici sono io, sono il bambino. È una questione di, come dire, di? Sentire, no? Te lo senti dentro, no? Certo, una specie di illuminazione. Ma voi non potete capire niente, quindi è inutile che parlo con voi. Allora, ciao. Ciao. Sono un bambino indaco. Sì, allora, ma chi se ne frega? Siamo contenti. Guardate che, tra l'altro, ho cominciato a far fruttare queste capacità. Ho fatto qualche soldino. Ma quali capacità, quali soldini? Con la chiaroveggenza, te l'ho detto prima. Guarda, no? Che di solito quando si parla di New Age e bambini indaco, i soldi tendono a rubarteli, cioè a prenderteli, caso, non a farli. Insomma, no, li danno. Te li danno. Gli altri bambini, no? Gli altri bambini. Ma quali? Ma guarda che ti stai facendo incastrare con le robe tipo Dianetics, roba. Allora, io ho queste capacità di chiaroveggenza, faccio previsioni all'asilo. All'asilo. All'intervallo. Previsioni di cosa all'asilo? Faccio previsioni. Faccio previsioni, dipende dalla richiesta del cliente, no? A piacere. Risultati sportivi, regali di Natale, tutto, basta chiedere cosa mangerò. Quel giorno, tal giorno. E cioè, quanto ti fai pagare per servizio Oriclusi, E quanto costa? 5 euro. E tu fai una previsione. Soddisfatti o rimborsati, Scusa, ma se sbagli la previsione poi devi restituire i 5 euro? Sì, soddisfatti e rimborsati. Quindi, ma è mai tornato qualcuno a farsi rimborsare? No, perché io faccio previsioni da giugno in avanti, no? Sì. Quindi alla fine l'asilo. Quindi passa l'estate, i bambini si dimenticano, intanto 5 euro, cioè nessuno verrà mai, no? Ma è una truffa, ma cos'è? Ma che truffa? Se uno vuol sapere cosa gli succede a Natale prossimo, io glielo dico. Sì, mi regalano l'Xbox, hai voglia se te lo dico, 5 euro, lui mi dà. E tu cosa e poi mi dici? Di Natale si è dimenticato. O mi dice, ma io avevo, Cioè, capito? Sì, chiamiamola truffa. Ecco, chiamiamola truffa. Quella solo per farci capire dalla massa. Invece, chiamiamo truffa. Tra di noi, come la chiamiamo? è arguzia. Va bene. Comunque, tu di tutto questo noi. Senti, ma allora posso approfittare? Ti do 5 euro. Vuoi, per gli adulti 20 euro sono. Ma come 20 euro? Ma ti faccio no, ma guarda, si è fatto tardi, dobbiamo andare. Ti faccio la previsione a 3 mesi. E allora qual è la previsione? A 3 mesi, 3 mesi c'è l'offerta, perché 3 mesi fa in tempo. No, l'ultimo giorno scade, pazienza, devi ricordarti tu. Tito! Dai, vedi, anche lui si accorge. Sì, infatti. No, vabbè, lui non c'entra. Poi, a caso io cambiassi asilo e mi recuperi, la previsione è andata a buon fine o no? Vabbè, fammi sta previsione. No, tu devi chiedere cosa vuoi sapere. Non so, ormai ti sei messo tu in questa cosa, devi sapere tu. Qualcosa che ti sta a cuore. Sei tu che ci credi a ste puttanate, dai. Tipo... Sì, però... Ti ho ancora fatto la domanda, stai calmo, no? Dunque, potrei chiederti... Io sento un puzzo di bruciato, qui. Io sto perdendo tempo qui, la previsione. E 10 euro, tu... Drago, tu se anticipi tu 10 euro di lui? No, ma io non anticipo. Tu me li anticipavi prima? Io poi ti davo. Potevi quando lui me li dava, te li davo io. Se tu prevedevi che si addormentava. No, e lui non me l'ha chiesto, gliel'avrei detto. Mi addormento, dico, io hai voglia. Quindi almeno 5 euro per il disturbo, l'uscita. Adesso c'è venerdì. Ma no, ma siamo a lunedì, come facciamo? Il venerdì? Ma io voglio fare il venerdì, Drago. Non si può. Non si può fare il venerdì. Perché? Quando non è venerdì. Ma lunedì è un giorno da abolire. Poi c'è il martedì che è la tristezza. Poi il mercoledì. Lo sai come basta. Cioè non è che mi devi ogni volta dire poi ripeti. Perché non hai capito la sequenza della settimana. Allora, oggi è lunedì. Oggi è lunedì. E invece no. È venerdì. Oggi è lunedì. A risentirci a martedì. No, ci vediamo venerdì. Lunedì, martedì. Il mondo è sempre venerdì.